tanti complimenti, ma com'è che non li senti? Non li leggi i miei commenti? Ogni volta che ti mostri, la bravura che dimostri, non è mica di Silvestri, sono pure cazzi nostri. E sono io che compro i dischi, io sono lì appena esci e faccio un muro contro i fischi e ti trasformo in oro i fiaschi. Io ti sostengo quando caschi nei tuoi percorsi equilibristi, anche il successo dei tuoi testi lo devi a me, non lo capisci? Ah, ah. Se sono io il tuo fan, posso mandarti a fanculo. Ti è mai venuto in mente che a forza di gridare hai più di 50 anni e dovresti riposare? E invece ancora col megafono, ma che malinconia, meglio puntare all'anima. Tu predichi bene, ma razzoli male, nei centri sociali, col polvo integrale, col pugno levato, Maldive a Natale, col culo degli altri, fai l'omosessuale, la villa Fregene e fai la morale, le donne e le gene, ti sembra normale, ti fingi vegano, ma mangi maiale, sei il vecchio Daniele Silvestri ufficiale. Ti combatto e ti difendo, perché non ti rendi conto, che è questione di un momento, e ti crolla il mondo addosso. Io mi ingegno come posso, e sono sempre qui connesso, ma se non vuoi tirarmi scemo, non andare più a Sanremo, ah, ah. Se sono io il tuo fan, ah, vero, posso mandarti a fanculo. Se sono io il tuo fan, ah, vero, posso mandarti a fanculo. Fra noi lascerei stare le opinioni, anzi se vuoi concentrati sulle canzoni, che vedi ormai hai poche visualizzazioni. Suggerirei, sai, di ritornare pezzi buoni, tipo preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano. Ti ricordi salutando con la mano e noi da sotto rispondiamoli, rendiamoli, twittiamoli, postiamoli, lanciamoti, tacchiamo fino a starci male. Vedrai sarà virale, in me che non si dica, tu fatti fuori, fatti un video con un gran pezzo di ragazza. Ce l'avrai un'amica, una bonanza, un po' svestita, e tu quelli qui davanti, sono tutti un po' ignoranti, ogni volta che tu canti, fanno tanti complimenti a te, mica a me.